solo mai la di maggio. Solo mai la chiederò. A chi è Daniel Cardoso? Solo mai la di ma è giù. Yeah.